da pacca di Nikita va bene. Si tu la parla miez americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come da venen cave di I love you. Papà l'americano. Para americano.